Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Speciale Luxury Summit di Eleonora Micheli. Come sta reagendo alla crisi il settore della moda e del lusso, uno dei comparti più importanti del Made in Italy? Pare muoversi a due velocità. Mentre le aziende medio-piccole soffrono, i grandi gruppi crescono con tassi spesso a doppia cifra, sfruttando la propria presenza in Asia o in aree geografiche le cui economie procedono a passo di carica. Ne parliamo in questa puntata speciale a più voci, nata dal Luxury Summit del gruppo 24 Ore che si è tenuto giovedì scorso a Milano. La prima voce è quella di Brunello Cuccinelli, imprenditore umbro del Kashmir, 240 milioni di euro di fatturato nel 2011. Sbarcato in borsa a fine aprile, si è quotato con un'offerta pubblica iniziale da record. Le azioni sono volate del 50% nel primo giorno di contrattazione a Piazza Affari. Il collocamento dei titoli è avvenuto al massimo della forchetta e la domanda di azione è stata 17 volte superiore all'offerta. C'è la crisi che sta impazzando. Qual è la sua visione per il settore del lusso? Ma io onestamente a livello mondiale non la considero crisi. Cioè, il Made in Italy di grande qualità, di grande artigianalità, chiaramente con prodotti contemporanei, perché questo è il tema, può avere il suo grande valore. Credo che il mondo intero sia comunque affascinato dal Made in Italy. Dobbiamo avere il coraggio di essere competitivi contemporanei. Io personalmente, nella nostra impresa, dico tutti i giorni ai ragazzi, non dedichiamo troppo tempo a preoccuparci di quello che farà il dollaro piuttosto che l'euro, piuttosto non è di nostra competenza. Noi siamo industriali, dobbiamo essere innovatori, dobbiamo essere speciali nei rapporti umani e dobbiamo far sì che i nostri prodotti siano affascinanti per il mondo intero, perché il mondo intero ha grande stima dell'Italia. Ma quali sono i punti di forza e quali invece i rischi? Onestamente i rischi non saprei dirli, i punti di forza dico che il mondo intero è affascinato dal Made in Italy di grande qualità e di grande artigianalità, quindi io non vedo negativo, vedo positivo. Lei parla di mondo intero, quindi immagino che le aziende del lusso puntino soprattutto sulle esportazioni. Per quanto riguarda invece l'andamento in Italia delle vendite? Ma veda, l'Italia è sempre molto interessante, molto affascinante, perché se la collezione non piace agli italiani, non piace agli europei, il problema è abbastanza forte. Quindi io non credo che l'Italia finirà, forse avrà un leggero ridimensionamento, ma questo resta sempre molto importante perché il gusto italiano è la base. E le collezioni devono piacere a noi italiani, quindi ci sarà un leggero rallentamento, ma non ho io nessun pregiudizio, nessuna paura per il mondo intero che è affascinato dal nostro Made in Italy. Piuttosto dobbiamo collaborare per far sì di trovare mani sapienti, esseri umani sapienti, che verranno a lavorare nelle nostre imprese, che non è sempre facile, chiaramente, per 1.000 euro al mese. È lì dove dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare per convincere giovani a venire a lavorare nelle nostre imprese, quindi dobbiamo ridare dignità morale ed economica al lavoro. Più in dettaglio invece per Brunello Cuccinelli, sì. Abbiamo visto il successo, la quotazione, quali sono le prospettive dell'azienda per fine anno, a quali i progetti anche dopo i soldi incassati grazie all'IPO? Ma devo dire che io faccio industriale, ho una visione a 5, 10, 50 anni dell'impresa, non sono particolarmente alterato dalla settimana o da 15 giorni di quello che fa il dollaro piuttosto che la borsa, ripeto, è un progetto industriale, quindi siamo sereni, abbiamo il nostro progetto di crescita, una crescita garbata, una crescita con dignità, perché credo ancora che la crescita debba essere un po' come una volta, no? Un po' più garbata, come era forse 20 o 30 anni fa, quando si diceva spesso l'azienda si sta consolidando, è un'azienda seria. E ultima cosa, mi piacerebbe un po' anche tornare su questo valore del lusso. 20 anni fa si diceva spesso in che settore lavoro? Sono nel mondo dell'abbigliamento, adesso spesso si dice siamo nel mondo del lusso. Io non credo che questo, non credo nel lusso democratico, nel lusso accessibile. Il lusso deve essere qualcosa di grande qualità. Ti posso dire che noi continuiamo ad avere una crescita significativa in Italia. Questa crescita chiaramente viene in gran parte da consumatori non italiani. Vediamo, russi e cinesi sono ai primi posti in tutte le classifiche, ormai tutti usano carte di credito, quindi è anche più facile rilevarli, però arrivano anche nuove nazionalità. Per concludere, cosa auspicate anche da parte delle autorità politiche? perché... Guardi, io credo aiuterebbe moltissimo avere visti più facili, avere infrastrutture, aeroporti, comunicazione anche del nostro paese, non solo le grandi città ma anche le città secondarie che sono apprezzatissime, una, se vogliamo, immagine di un'Italia, anche di un'Italia allegra, di un'Italia felice, di un paese dove la gente può venire volentieri, che è quello che ha trascinato tanto, e credo che questo flusso turistico non deve essere visto come in antagonismo con l'industria, perché genera posti di lavoro. In chiusura di questa puntata speciale di Voci d'Impresa sentiamo Michele Tronconi, presidente di Sistema Moda Italia, che rappresenta le aziende della moda e del tessile. Quali sono le prospettive per il settore del tessile? Guardi, le prospettive vanno lette in termini di ottimismo della volontà. Noi vogliamo e ce la mettiamo tutta, però la situazione è difficile anche per noi. Si tratta di correre all'estero e purtroppo rimanere alla finestra in casa nostra. L'incertezza è molto elevata e purtroppo sta avendo anche degli effetti amplificati lungo la filiera, perché i timori di vendere meno porta anche ad acquistare meno, a far produrre meno. È un qualcosa in più che si somma a una situazione paradossale per chi produce in Italia: ricavi che scendono e costi che salgono. Difficile essere competitivi nel 2012. Che cosa auspicate dalle autorità politiche? Beh, come ho detto anche all'inaugurazione dell'Assari Sammy, si esce dalla crisi soltanto se si pone fine all'ipocrisia, l'ipocrisia tra pubblico e privato e l'ipocrisia tra privati. Tra pubblico e privato significa non continuare a dirci dovete esportare di più quando c'è meno convenienza a produrre. Si può esportare di più se si produce di più. Abbiamo bisogno di un costo d'energia più basso, e il costo d'energia oggi è altissimo perché è pieno di elementi parafiscali. Sono saliti fortemente anche molti altri costi di produzione a causa della maggiore pressione fiscale. Non è così che si può assicurare la circolazione dei redditi in Italia. Bisogna avere più coraggio sul fronte del sostegno alla produzione in Italia. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.